Non c'è più nessuno. Ehi, ciao Eugenio, Claudio c'ha da fare, c'ha molto da fare per il cambio casa. E poi tutti gli altri stanno entrando poco, dai. Ehi, tutto bene, niente a posto, dai. Devo fare esame all'occhio perché è un po' offuscato. E piccole analisi devo fare, dai. Speriamo. Fallo sapere. Ogni tanto entra Natalino, però Natalino un po', insomma, magari non vi sentite con lui. Te l'ho detto, di solito se entro io Natalino, Claudio quando c'è, ma Franco lo sta più entrando. E così è semi deserta la frequenza. Sul 23 sono più attivi, oppure in PMR. Beh, quando c'è, perché stanno anche in PMR, capito? In UHF. E tu, sempre impegnato col lavoro? Eia. Eugenio, dove sei? Dove ti trovi? Sei in macchina o a casa? Ehi, come ti arrivo? Tu sei Santiago 5. Eia. Guarda, se non ci sentiamo dopo, ritieniti salutato, ok? Se ci perdiamo di segnale. No, io no. No, nulla. Eia. Bene, vediamo se c'è Natalino all'ascolto. Natalino, ci sei? Ma che, non c'è un'anima. E poco, quando può, lavoro permettendo, entra. E impegni permettendo, ogni tanto entra anche lui, ogni tanto però. Devi beccare il momento giusto. Stai sparendo di segnale. Ehi Eugè, ritieniti salutatomi che ci perdiamo adesso. Santiago 3. Eia, ma tu che apparecchio stai usando nel furgone? Ho capito poco, comunque il 3009, sì, quello l'ho capito. Va bene, dai, buon proseguimento di serata. Io fra mezz'ora, un'ora mangio, eccetera. Dai, già ci sentiremo, prima o poi ci sentiremo, dai, ciao. Eia, ciao, buona serata, dai. Sicuro che l'amici? Attento a Paolo Bolonis, ci sei? Attento alla Tale Santo Stefano, ci sei? Attenzione a Canive 10. Cicco canale 10, non sento voce. Cicco canale 10, non te mi fa vedere la portante, non parli. Cicco canale 10, non c'è radio, non stai uscendo di radio, segnalone ma radio 0. Claudio, attento Claudio, ci sei? Ehi, Giulio. Ciao qua, ero io poc'anzi con la portata, non uscivo in radio, ero un sacco di tempo senza usare questo apparecchio e adesso ho messo un po' di disossidante nel microfono e quanto sembra già sta uscendo, ma io vado a controllo sul canale 23 perché non c'era nessuno, ma infatti poc'anzi sono chiamato, ma evidentemente sono uscito. Come sta uscendo? Sì, sono andato a portare il cane, ciao anche Valerio. Sì, adesso ce l'ho bene. Giulio, me lo fa anche a me, me l'ha fatto, ero un po' assente, sono andato a pigiare il 60 e lo fa, è un difetto che fa il 60 purtroppo. Allora, ho devi aprire, muovere sotto il in-out, il sistema di preamplificazione, spruzzarle un attimino uno spray per contatti e poi riprovare. Purtroppo è un effetto che fa, se non lo usi è un casino. Infatti, perché è un sacco di tempo adesso che non lo stavo più usando, era almeno un mesetto questo, acceso tutti i giorni, però il microfono non lo toccavo perché non era anche senza antenna. Infatti ho fatto una strada, non riesco a capire. Ci ho messo un po' di disossidante sul tasto lock, lì era il problema, era quello che mi faceva difetto lì. Ho messo un po' di disossidante per contatti e adesso sembra che funziona bene. Sì, ma il sistema è sempre sotto quando lo apri, dove c'è la commutazione della preamplificazione, capito? Sembra che chiuda completamente, non capisco. A me me l'ha sempre fatto, infatti cerco sempre di tenerli in movimento, li muovo sempre io, lo muovo sempre quel sistema lì, perché altrimenti ti si blocca, non capisco perché si chiude, non lo so. Comunque stiamo andando benissimo alla grande. Vediamo Valerio, ciao Valerio, buonasera, ben ascoltato. Vedi, guarda, vedi, oh, vedi, ora, vedi che non stava più scendendo neanche il mio. Ok, ma a me non me l'aveva mai fatto, e pensare che era anche coperto con un telo, tutto coperto, sia il microfono che la radio, come vuol dire, da oggi muoveremo anche quello. La radio era già tutti i giorni, almeno ogni 2-3 giorni già muovevo tutti i pulsanti, tutti i potenziometri, tutto per, anche se era senza antenna, però li muovevo, naturalmente non quello dove schiacciano portati, ovvio, no? E cioè sempre, eccetera, quello no. Ma tutti gli altri li muovevo proprio per evitare di prendere contatto. Invece il microfono non l'avevo mai fatto, ma adesso vedo che anche la dormita che sta andando bene. Dovevi muovere, vedi, anche il mio, perché questo è del 60 col 140, sto andando adesso, no? Perché ce ne ho tre, uno per il 430, uno per il 440 e uno per il 140. Quello che uso spesso è quello del 440 e del 430, e questo ogni tanto mi fa difetto, capito? Allora dovevo muovere, sì. Hai sentito Valerio, Giulio? Troppo basso lo sento, non capisco bene quello che dice. Sì, magari quando attacca già lo sento, ma diversamente è troppo basso, faccio fatica. Poi anche io ho avuto tra l'altro il volume, non è che lo tengo nemmeno molto alto. Per cui non lo so, attento Valerio, mi ascolti? Ok, va bene. Aspetta che cerco, se ti fammi sentire leggermente meglio. Adesso così, così non so, vale, se riesci a sentirmi meglio, vuol dire dai, mi avvicino anche un po' al microfono, anche perché non lo tengo forte, né di watt né di niente, sono 10 watt appena, per cui, lo so, per Alghero io non è che sono in una posizione molto comoda, oltre al fatto che l'antenna è sempre in basso, come avevo detto tempo fa. Va bene, riprendi ancora, vale, vai. Lo so, troppo riposo, anche lui ha bisogno di riposare ogni tanto, capito Valè? No, ma guarda, io dall'85 che uso l'MC60, capito? Inizialmente non lo faceva, poi ho iniziato a fare questo difetto e anche altri, che praticamente si chiude il circuito di preamplificazione così. E quindi vai a toccare sotto la commutazione e non lo fa più, si riprende da solo. Non è un grande un problema, però è sempre un difetto che fanno questi tipi di microfono. Va bene, ok, avanti Giulio, riprendi. Ok, qua sì, no, ma ripeto, non l'aveva mai fatto questo, che io no. Poi devo dire una cosa, io non l'ho mai aperto nella radio, tantomeno il microfono, non so nemmeno come ho fatto adesso, pensa un po' se potevo pensare a quello. Oh, vabbè, dai, vuol dire, se me lo rifà vuol dire aprire il microfono e darò una spruzzatina dentro, vediamo un po' se c'è del lucido, ma non credo, perché il microfono è fiammante, sai come dire fiammante, e poi già lo conosci tu, come questo microfono, e così era e così è rimasto, non è che io ti ho fatto fare la guerra, no? Anzi, l'ho trattato anche troppo bene, addirittura coperto, quando non lo uso lo copro, per cui per evitare che entri la polvere eccetera, o qua. Nonostante tutto il problema si è verificato, per la prima volta, ma intanto si è verificato. Ripeti. Ma non ti preoccupare, non è niente di grave. Sì, quando io ho dato la radio a chi sei tu, il microfono mi pare aveva forse un paio di mesi, infatti l'avevo dato quello nuovo e io mi avevo tenuto l'altro e ce l'avevo già un annetto, quindi sia la radio che il microfono è nuova, non c'è problema. No, ma anche questi, uno l'ho preso col 140 di MC60 ed è questo che sto usando, però era un po' troppo fermo, mentre gli altri due sono quasi sempre in funzione e sono tutti e tre ottimi, nuovi, no? Non c'è problema, saluto. Ok, avanti, Valè, riprendi un altro pochino, poi ce l'andiamo a cenare, perché poi già lo sai, c'è la partita, quindi mi voglio sedere al divano a guardarmi la partita a Santa Pace. Avanti, Valerio. Giulio, riprendi che ti ha rilanciato Valerio. Vabbè, è arrivato un po' di QRM, dunque non lo sentivo. Perché di segnale mi arriva Santiago 5, sì, però il radio è molto, molto basso. È per quello che non siamo nelle stesse. Ma dipende, comunque Valerio, dipende soprattutto da me, perché io ho l'antenna in basso. Non è più al solito posto dove era in origine, adesso è proprio in basso e poi è un dipolo praticamente, anche se in verticale, però è un dipolo. Per cui il discorso, ripeto, oltre al fatto che non sono in una posizione ideale per l'alghero, perché è sempre stato così nel corso di tutti questi anni, è sempre stato così, per l'alghero sono in una posizione un po' negativa, per cui vabbè, pazienza. Pazienza, Valì, vediamo se mi ha sentito adesso. Questa va di basso contro 100 basse, qua. No, è liscio, Non me ne accorgo, si attacca. Sto facendo la gemella della tua. Ok. Sì, intanto saluto a Giuseppe, che l'ho sentito. Ciao Giuseppe, buonasera. Beh, non mi dire che hai il QRM con quella radio, col baracchino, sì. Infatti Giulio mi chiedeva se l'hai agganciato, ho detto no, sta usando la radio come la nostra, diciamo, dai. E quindi già me la colgo quando attacca. Col baracchino magari lo senti più forte perché c'ha più potenza. Con quello sta usando la potenza, insomma, che stiamo usando noi, perciò magari è leggermente più basso. Però è sempre qua oltre il 9, 9,5 abbondante qua mi fa, vabbè, io per Alghero sono favorevole, tu lì no, però già arriva bene. Ok, vediamo, Giulio, riprendi tu, tanto Giuseppe non lo senti, quindi è un territorio rilancio. Ok, qua, no, non lo sento assolutamente, per niente, proprio per niente. Sento che c'è una voce sotto, ma non capisco proprio nulla di quello che dice Giuseppe. E sicuramente sarà anche per lui, nei miei confronti, non credo che riesca a sentirmi, perché se non ha così ricezione, cioè che non ha così trasmissione, nemmeno ricezione, avrà senz'altro. Vabbè, dai, io vi lascio, vado a cenare, perché fra un po' c'è la partita, già lo sai, speriamo bene cosa vuoi dire. Adesso la freccia l'abbiamo messa qua, per il sorpasso, speriamo di riuscire a tenerlo questo sorpasso alla grande, e chi lo sa, staremo a vedere stanotte. Ciao qua, grazie per il controllo, la chiacchieratina ce la siamo fatta anche se poco, domani ci risentiremo senz'altro. Ciao Valerio, alle prossime, grazie anche a te per la piccola chiacchierata, alle prossime, ciao, salutami Giuseppe se mi ha sentito, se lo pazienza, non salutate voi. Riprendi Valerio. Va ma dai, saluto a Giulio, ciao Giulio, buona serata, buon tutto, speriamo bene, ma la cosa importante lo sai, oramai nel campionato siamo stufi, non mi dispiace se non lo vince, se lo vince è meglio, ma a me mi interessa che vinca la Champions quest'anno la Juventus, però siamo sempre punto e a capo con la più grande squadra del mondo. Pazienza, va bene, ciao, un abbraccio, a presto Giulio, grazie anche a te delle due chiacchiere, ci aggiorniamo domani. Ok, ciao ancora di nuovo, ciao di nuovo a Valeria, buonanotte, alle prossime, ciao, alle prossime. KK, ciao, alle prossime. Ok, allora, grazie a Giuseppe, visto che io lo sento. Ok, poi Valeria, mi dovevi telefonare, invece non mi hai chiamato stamattina, ero un po' girovagando. E ci saremmo anche visti. Va bene. Giuseppe, a te il cambio, avanti. Qua c'è il microfono tardivo, c'hai. Ah, vale, il microfono tardivo c'ha Giuseppe. Anche a lui gli diciamo il nostro motto, vale. Vabbè, il lineare se lo lasci in commutazione M, in barra laterale stacca come ha fatto Giuseppe, ma se lo metti nel selettore in banda laterale già stacca subito da lì perché c'ha la commutazione più veloce, e se no lo sai, no? Accatta come te cherete. Guarda, c'era il mio vicino che stava andando al mercato a comprare un po' di carne, pesce, sono uscito con lui, ho fatto compagnia a lui e mezzogiorno ero già a casa. Siamo andati lì al bar del mercato, abbiamo preso un caffè assieme, trovato qualche amico, due chiacchiere e poi me ne sono rientrato, ma sinceramente se non avessi trovato a lui non sarei neanche uscito perché non sapevo manco dove andare, figurati. Capito? Spero che la prossima settimana ci vediamo. E usa Bettiriglia. Farmi vendere un monumento di Mazzini che. Ui. Avanti, Don Giuseppe, il re delle ferrovie. E vabbè, tu già hai dato più di me di Valerio, però cioè è bello passeggiare, è che il tempo è così, non sai, infatti volevamo uscire a piedi, poi abbiamo preso la macchina, adesso vabbè, speriamo che inizi veramente la primavera, che ci dia un po' di sollievo, se no cosa vuoi ti richia? Sempre accata come te chiedete, subito un po' tutto, statelo. Non si può stare, quindi queste sono cose che non devono succedere perché primavera un po' il tempo dovrebbe cambiare, non so, vabbè, speriamo bene o vale, speriamo bene. Avanti Giuseppe, ho capito cosa hai detto? In un tempo purtroppo non lo comandiamo noi, Giuseppe. Se l'avessi comandato io avrei lasciato l'estate tutto l'anno, capito, come la canzone. Però purtroppo le stagioni ci devono essere e quindi il tempo un po' è bello e un po' è brutto, vero Valè? Eia Valè, va bene, così è il tempo anche di controllarti quella questione là, però ti ripeto, no, non c'è nessun problema. Puoi scendere, avvisami naturalmente, non so mai che sono in giro, e così facciamo anche quelle prove che abbiamo letto e non ci stanno problemi. Va bene, dai, ti auguro buona cena, buon tutto e alle prossime, anch'io chiudo salutando naturalmente Giuseppe e chiunque fosse in ascolto sul canale 10, dai. Buon fine serata a tutti, buona domenica per domani e buona cena soprattutto. Ciao, bye a tutti. Ciao a tutti e due. Ricordati Vale e quel manuale, capito? E quell'altra roba che abbiamo letto. Così le diamo uno sguardo. Ciao, un abbraccio a tutti e due, buona cena e buon tutto. Ciao. Ascolta, una cortesia me la fai nel caso dovessi scendere? Prima di partire, passa un attimino da Giuseppe, ok? E Giuseppe, le dai a Valerio l'alimentatore, che lui deve scendere a Sassari, così mi eviti di salire a me. L'alimentatore è quello che non funziona. E me lo porti giù, Valerio. Poi ci aggiorniamo naturalmente in settimana, ok? Sì, passi quando vuoi, te lo metti in macchina, tanto non funziona. Che così glielo metto a posto, ok? E poi lui quando è a Porto Mario ci vengo io e glielo riporto, no? Non è quello il problema, ne provate averlo qua, così mi evita di salire ad Alghero, magari a portarglielo glielo riporto io, ma no, visto che stai scendendo mi fai questa cortesia. Ok, ciao di nuovo a tutte e due, grazie, ci aggiorniamo da lunedì in poi, Vale, ok? Pirata! Ah, così è, vabbè, comunque non ci sono problemi. Ah, catacomete Kerete, oh Giuse, ah, tutto in farada, già va bene. Ciao, ciao Giuse, buona cena a tutti, ciao Marcolino. Ciao Claudio, sono andato per un saluto, dai, sto per fare il caffè con la macchinetta. Ciao a tutti, dai, ciao anche ad Alghero, Eh beh, l'ora del pipistrello è questa. Dai, un saluto a tutti, dai. E chiudo subito, dai. Ciao a tutti, ciao. Eia, vediamo cosa ne esce da questi esami che devo fare. Mamma mia. Che palle, guarda. Quando è roba delicata come gli occhi mi dà un fastidio. Capito? Poi forse per rimediare userà una terapia laser, boh, basta che non mi rovinino più di quanto non sono rovinato. Scusate lo sbadiglio, ma la bioccola dopo... Vabbè, voi lo chiamereste dopo cena, io lo chiamo dopo pranzo, dai. Dai, sentiamo, chiudo, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, Marcolino, dai, vi saluto che mi hanno già chiamato, davvero. Ciao a tutti, buonanotte, buon proseguo, a domani, ciao, ciao. Eh beh, a lui bisogna dirle buon pranzo, mentre a noi buona cena. Dai, di nuovo a tutti, ciao ciao.